Ogni volta io penso al profumo della pelle tua, anche se sei distante, io ritorno da te e ripenso ai tuoi occhi distratti che guardano me. Quando sei qui vicino mi scoppia l'anima mia. Prendimi, prendimi. Ogni volta ripenso al tuo corpo, ma non sei qui. Prendimi, prendimi. E rivivo i nostri momenti, ma non ci sei. Ogni volta io guardo il mio letto disfatto da te. Ogni volta rimane l'odore lasciato da te. E ripenso ai tuoi occhi distratti che guardano in su. Mi rigiro di scatto, ma tu non ci sei più. Prendimi, prendimi. Ogni volta ripenso al tuo corpo, ma non sei qui. Prendimi, prendimi. Vorrei proprio fuggire lontano, andarmene via. Prendimi, prendimi.